stata fatta un'inchiesta approfondita e ha portato a un nulla di fatto. È lo stile dei dirigenti che viene fuori. No, mi preoccupate voi, sinceramente. È un affaticamento, come sono stati milioni in ogni sport. Primi e secondi in qualifica qui, primi e secondi in gara qui, hanno vinto anche a Singapore, quindi definitivamente le ultime tre o quattro gare sono state molto dominanti per loro. Tutti convocati di Carlo Genta. Sul lavoro non ci si diverte. Io sì, e anche voi lo so, 800 24 00 24, e siete tutti convocati anche oggi, venerdì. Sul lavoro si diverte Franco Piantanida, tra l'altro suo radio compleanno da 3 anni, autore di questo programma. Purtroppo, caro mio, non si può scegliere né il tempo meteo. Oggi a Milano è una giornata uggiosa, di quelle che mettono tristezza, neanche il momento calcistico che forse mette... l'euro momento calcistico che forse mette tristezza ancora più della pioggia che sta cadendo. Settimana dalla quale usciamo dall'Europa, direi piccoli così. Poi oggi è venerdì, parleremo anche di basket e con Dan Peterson anche delle World Series di baseball in corso in America. Insomma, tanti argomenti che poi sceglierete anche da soli, 800 24 00 24. Ma torniamo a questa settimana di euro tristezza. In questo momento quello che conta è il risultato. Stasera abbiamo avuto una disattenzione nell'occasione del gol, era un momento sicuramente che loro ci stavano un pochino premendo, però non avevano praticamente quasi mai tirato in porta. Che insomma giochi con avversari che sulla carta sicuramente, poi anche sul campo si dimostra che sono, diciamo, inferiori a te, però sono sempre dei campioni di Danimarca, per cui non sono degli sprovveduti. Siamo partiti male e abbiamo dovuto inseguire per tutta la gara, e adesso abbiamo un pochino vanificato la nostra impresa di Liverpool. Non ha pagato, però guardiamo la partita. Rispetto al PSV, oggi abbiamo fatto una bella partita. Gli episodi ci hanno dato torto, ha detto nel servizio, partita sfortunata. In certi momenti si deve usare tanto la testa, essere furbo. E abbiamo visto ultimi 10-15 minuti che loro hanno provocato questi falli, perché hanno visto che solo così potrebbero fare qualcosa, e purtroppo sono riusciti. È Tristesse di Chopin, poi c'è anche chi perde il lume della ragione calcisticamente parlando, come Andrea Capelli del PD, portavoce di Nicola Zingaretti, candidato governatore del Lazio, che ha scritto su Twitter una cosa come: Chelsea-Juventus c'è rimasto da Sperà nell'incidente aereo, spero che invece lui si vergogni e la levi alla svelta. C'è anche chi mi manda una mail stamattina: il Milan non ha giocato male, sono dentro ad un clima di depressione, non si può continuare con questo allenatore, firmato una suora. Walter Novellino, buongiorno. Buongiorno. Ciao Walter. Non erano belle parole comunque. No, parole orrende, non belle parole. È stata una settimana di pessime parole, e ma tu lo sai bene, no? Più hanno cultura, più hanno cultura questi, più la fanno fuori dal vaso, veramente. Sì. Scusami la parolaccia. Che dici? La fanno fuori dal vaso? Mi sembra quasi fin troppo dolce ed educato rispetto a certe parole. Senti, mi aspettavo di chiamarti a Cluj ogni tanto per sentire come funzionava laggiù, invece hai deciso di non andare. Sì, ma più che altro ha prevalso la famiglia in questo momento, anche se poi alla lunga ho riflettuto io bene, perché è ovvio che poi ho pensato, ma possibilmente c'è posto nel campionato italiano? Ecco, quella è la mia domanda che mi sono posto, e allora ho detto, vabbè, io ringrazio sicuramente, sono stati molto gentili, bravi a cercarmi, per carità, però credo ancora in quello che sono e credo anche in quello che è rimasto di poco nel calcio italiano, insomma, che è la cosa più bella, è il campo. E io sono troppo innamorato dal campo, e difatti ho fatto degli errori, tra virgolette, ecco, in questi ultimi due anni, anche di aver scelto delle piazze così di Serie B dove non c'era un programma. Allora sì. era anche un attimino. Senti, cosa è rimasto? Tu dicevi quel poco che è rimasto del calcio italiano. Poi adesso è chiaro che è il momento della depressione, cioè chi scrive che figura di me, il calcio è come la politica, lo specchio di ciò che siamo, chiacchiere distintivo. Che cos'è rimasto del calcio italiano in questo momento? Ma sono rimasti i giovani, secondo me è questo che dobbiamo puntare. Dobbiamo puntare sui giovani, dobbiamo puntare a una sterzata completamente, insomma, perché onestamente leggo, sento scommesse di quello, di quell'altro, non facciamo una bella figura. Noi nel nostro paese, nella nostra vita, non parliamo del mondo, perché noi dobbiamo pensare a casa nostra. Io penso al mio lavoro, penso che come si fa a dare possibilità a dei certi che giocano, scommettono e che ancora allenano e ancora giocano. E quella è la cosa più brutta, insomma. Io dico, ma in che mondo è che questo che viviamo? Le persone oneste, allora un pochettino di tristezza c'è, però si va avanti, perché uno deve pensare che io credo che se noi riusciamo a riorganizzare un attimino un po' tutto nel settore giovanile. Allora, Walter Novellino, intanto portati a casa questi messaggi. Grande Walter, Genova ti saluta. Oppure, grande mister Novellino, le auguro di trovare presto una sistemazione, soprattutto un progetto di lunga durata, anche se oggi pare impossibile. Ho ancora in mente il super rendimento di Recoba sotto la sua guida, scrive Luca. Walter, se non ti crea problemi, a Venezia ti aspettiamo a braccia aperte. Non c'è più Recoba, ma va bene lo stesso. Su Twitter invece scrivono: in realtà Novellino non va al Cluj perché sarà il sostituto di Allegri. Questo io non lo so. No. Beh, intanto ringrazio chi mi hanno scritto, insomma. Devo dire che mi farebbe piacere, Il Milan è sempre il Milan, ma al di là di questo io credo che lui è quello che ha meno colpe in questo momento. Lo so, Walter, però quando un allenatore viene esautorato dalla società, io sono sempre contrario al cambio dell'allenatore, salvo che in un caso, quando l'allenatore viene esautorato dalla società, i giocatori sono i primi a non crederci più, e allora a quel punto diventa molto difficile continuare su questa strada. Sì, è quello che stavo un attimino anche interpretando, perché loro hanno bisogno di una sicurezza. Vedo che anche Allegri, anche l'altro giorno, ha cambiato il modulo di giocare. Insomma, appunto, un po' di insicurezza si è notato, ma è ovvio che non vorrei che fosse mi ricordo l'anno dell'82, quando era il Milan, che noi eravamo il Milan, pensavamo di battere tutti, di essere più forti di tutti. Una domenica perdevamo, dice, ma sì, ma domenica prossima vinciamo, sistemiamo la classifica, e alla fine ci siamo trovati in Serie B, insomma. Però non è il caso di questo Milan, perché questo Milan credo che abbia dei giocatori di grande qualità, no, che manca di qualità. Ecco, secondo me, al Milan, secondo il mio punto di vista, posso anche sbagliare, ma manca un leader che non vedo un Seedorf, non vedo un Gattuso, non vedo Ibrahimovic, al di là del suo carattere, che era un carattere molto forte, poteva condizionare un pochettino un po' tutti, però aveva carisma. Io onestamente quello che io sto notando, ecco, che il Milan, per esempio, in questo momento fa un po' fatica su questo. Non ha il classico aspetto. Giocatore che nel momento di difficoltà dice agli altri: ehi ragazzi, quella palla datela a me. Esatto, bravo. E poi ecco, hanno preso Bojan, e non so che. Questo è un ragazzo che a me piace molto, non c'ha possibilità di giocare. Ecco, non so, non conosco i problemi, però ecco, sicuramente l'allenatore, come hai detto te, in questo caso è giusto, non si possono cambiare 22-23 teste, sì, ma si cambia una sola cercando di raddrizzare, di raddrizzare la strada, ecco, e di ridare fiducia e idee chiare a un gruppo. Walter, io ti ringrazio e ti aspetto presto su una panchina, che non sarà quella del Cluj. Ti ringrazio, grazie. Buona giornata, grazie a te. Ciao. Grazie a Walter Rovellino. Sta parlando in diretta Allegri, sentiamo una battuta del tecnico del Milan. Poi parliamo di basket, naturalmente, venerdì lo faremo sempre, ma anche non solo di venerdì, però venerdì di basket ci sarà sempre. Allegri. Non sia una questione di, oltre che di Montelivo, metterlo vicino alle punte, perché Riccardo è sicuramente un giocatore di qualità, che è un giocatore geometrico che in questo Milan, in questo momento, mi serve una ventina di metri più indietro. È questione di essere un pochino più lucidi, essere un pochino più tranquilli, l'ho detto anche ai ragazzi, perché e sfruttare meglio quelle che sono le occasioni e quando portiamo la palla negli ultimi 30 metri, perché ce la portiamo abbastanza facilmente e poi dopo lì c'è un po' la bravura degli avversari e un pochino in questo momento un pochino di imprecisione da parte nostra, perché fino a questo momento, che durante tutte le partite per un verso o per un altro occasioni ne abbiamo create, quindi siamo stati fino a questo momento un po' imprecisi. Ancora due cose, ecco, per me. Allora, siamo stati un po' imprecisi, dice Allegri. Non so se questa sarà la sua ultima conferenza stampa prepartita, però può essere. Abramo, provincia di Bologna, buongiorno. Buongiorno. Dica. No, io sento che anche lei è d'accordo che il Milan non è questa, i 7 punti non merita questi 7 punti il Milan. No, sono d'accordo, il Milan vale molto di più di quei 7 punti. Vale molto di più. E quelli che ci vuole un po' di pazienza, sì, Allegri magari ha fatto qualche sbaglio, ma con una squadra tutta nuova. E poi volevo chiederle una cosa che vedo che questi giorni non sono mai chiesto, ma Montari dove è andata a finire? Montare infortunato. Tra l'altro è stato operato. Ma lungo de gente, no, ma pare stia recuperando alla svelta, dunque tra un po' ci sarà anche lui, ma non mi sembra il giocatore in grado di risolvere i problemi di questa squadra, insomma. 800 24 00 24 è il numero verde e siete tutti convocati. Intanto si preannuncia grande battaglia in India stamattina, le prime prove libere, anzi le prove libere, due sessioni di prove libere, e sono i tre grandi, sono lì davanti con Vettel primo, poi Webber e terzo Alonso, dunque si preannuncia grandissima battaglia. Coach Dan Peterson, buongiorno. Coach, ci sei? Eccomi qua. E dove eri? Quest'estate è suonato il cellulare. Ah, è suonato, spegnilo. Stiamo parlando di Milano, che hai commentato ieri sera su Sport Italia, seguito con attenzione. Sembrava che a un certo punto potesse avere l'inerzia di questa partita in mano, invece non riesce a trovare che cosa? Innanzitutto, cioè, come è scritto il giornale oggi, a Milano problemi di calo di concentrazione, però ci sono anche episodi che veramente mettono in evidenza questa partita. Cioè, uno erano più, fai conto, 9 punti, e lì all'inizio del terzo quarto, secondo quarto, quando Fossis prende un fallo tecnico, fallo su Nozione o da Fossis, due tiri liberi pre-tecnico, rimessa a canestra da tre loro, cioè 7 punti, 7-0, in un amen da meno 9, meno 2, 42-40, un po' prima dell'intervallo, poche parole, e finisce 43-42 per Milano, ok, perfetto, da più 11, più 1, ok, però sono sempre in galleggiamento. All'inizio del terzo quarto, Borussis fa tre falli e tre azioni, vuol dire fallo in difesa, va in attacco, blocco in attacco, falloso, fallo in attacco, torna in difesa, fallo in difesa, cioè, tre falli, devono togliere Borussis dalla partita, che era veramente il punto di riferimento per tutta la squadra. Poi ovviamente l'infortunio a Nozione, il loro miglior giocatore, però ha avuto un effetto boomerang per Milano, anziché dare un beneficio, loro hanno chiuso proprio spalle a spalle loro, hanno lottato come dei pazzi, sì, soprattutto in difesa, molto disciplinati in attacco, e certamente oggi lo staff tecnico a Milano è più preoccupato per due o tre cose. Uno, questo calo di rendimento, c'è proprio blackout come è scritto la Gazzetta oggi, sì, cedere 95 punti in casa, che sì, hanno ceduto loro 95 punti, e i problemi di quelle che vengono dalla panchina, perché se tu vedi il plus minus di loro, c'è, e sono in grado di giocare bene, poi sono tutti giocatori che mi piacciono. Melli ha giocato benissimo, sì, vero, ieri, vero, sera. Senti, ma, Coach, ma chi è la prima punta di questa Milano? Airston o Langford? Perché c'è di nuovo un problema di gerarchie? Ma questo non lo so. Cioè, io, per me fa benissimo Sergio a far partire la Airston come alla piccola e Langford come guardia tiratrice, tanto per dire, sì, perché posso combattere, perché Airston è uno che l'altra partita ha fatto 8 assist, tanto per dire, quindi non fa problemi. Questo Langford ha fatto un assist ieri sera da antologia, ok, tanto per dire, quindi non sono quello che voglio essere la prima donna, la diva della situazione, assolutamente no. È che proprio Milano sembra di aver risolto un problema con, cioè, io dico sempre Polo Nord, Polo Sud. Ora, il Polo Nord, il pivot, ok, Borussia sta giocando bene, Hendricks dà un apporto quando può fare, eccetera. Uno dei problemi è la questione playmaker, che Stipkovic aveva fatto qualche fatica prima. Adesso ieri sera per me ha giocato benino, ok, per lui, e Koch a questi momenti, anche ieri sera 30 minuti o meno, su 10 punti, sì, plus minus, cioè non, sì, è da Omar Koch da fare questo qui. Quindi il segreto, e lo sa, ovviamente lo sto inventando, niente per tutti, era una squadra vincente che non c'è, oddio, dove è Tizio, dove c'è Caio questa sera, ci manca lui, cioè, dove ci sono tutti, magari non giocano una grande partita, ma non giocano una partita negativa, quindi il titolare nessuno può giocare una partita negativa, quello della panchina ovviamente devono tenere campo, e Milano, il potenziale c'è, ovviamente potevano benissimo vincere ieri sera, ok? Benissimo vincere, non ci sono storie, hanno lasciato sfuggire una grossa occasione, e poi Tau Vittorio, che veramente era lottato con le unghie. Okay? Sono una squadra vera. Coach, prima di salutarti volevo fare giusto due chiacchiere con te su ciò che sta accadendo in America nella notte. Questo. World Series, i Giants vincono 2-0 gara 2 delle World Series grazie alla grande prestazione di Baumgartner, 7 inning dal monte di lancio, e ora la serie va in Michigan, mentre nella prima partita era successo che avevano vinto gli stessi San Francisco, ma con una grande prestazione di chi? Di Pablo Sandoval, soprannome Kung Fu Panda. Che c'è? Ci sono sconvolto, mangio, va bene? Oh, non serve spiegare. Pensavo solo che fosse scimmia. Nasconde i suoi biscotti sulla mensola in alto. Allora, Coach, Baumgartner e Kung Fu Panda portano sul 2-0... San Francisco, chi vince queste World Series? Well, adesso San Francisco è in grande posizione, le ultime 6 o 7 volte che una squadra partita 2-0 ha sempre vinto, e la cosa interessante per me, l'hanno fatto senza i primi lanciatori, cioè né Kane né Vogelsong, è stato Barry Zito in gara 1 e Baumgartner, due giocatori che sembravano dimenticati, lanciano le prime due perché hanno vinto tutto la Lega Nazionale all'ultimo giorno, e la rotazione di lanciatori era tutto sfasato, e il manager Boce, che è un genio, ok, ha detto ok, vado con Zito in gara 1, e Zito ha fatto una partita incredibile, vado con Baumgartner, che aveva fatto scandalo nelle ultime due prestazioni, cioè l'ha picchiato duramente, ha fatto la partita del secolo, quindi poi sono in un momento di grazia, tutte le piccole cose di fortuna vanno dalla loro parte, loro sono favoriti, però Detroit è sempre Detroit, 3 partite in casa, vediamo come va. Per me il lavoro è una cosa molto seria, se ti stai divertendo probabilmente non stai lavorando bene. Sarà così, ragazzi, vi aspettiamo anche su Twitter, lo dice Briatur, vi stiamo aspettando anche su Twitter, forza, che poi facciamo la conta di quanti follower riusciamo a racimolare dopo ogni trasmissione, è uno dei nostri divertimenti preferiti post programma, soprattutto di Franco Piantanida. Allora ripeto notizie che avete sentito prima nel giornale radio: Napoli deferito a disciplinare per lo scandalo del calcio scommesse, la procura della Federcalcio ha rinviato a giudizio il club per responsabilità oggettiva, deferiti per illecito sportivo Matteo Gianello e Silvio Giusti, per omessa denuncia Paolo Cannavaro. Ci si riferisce, se non ricordo male, a Sampdoria e Napoli del 2009-2010. Questa mattina c'è stata anche l'assemblea dei soci della Juventus e Agnelli ha detto cose interessanti. Lo scudetto non deve farci dimenticare l'obiettivo, vincere mantenendo l'equilibrio finanziario. Noi abbiamo sempre promosso i cambiamenti, ma il nostro pallone va posizionato a livello europeo, vanno riviste giustizia sportiva e format dei campionati. Tra poco torneremo a parlare di basket, ma prima un paio di ascoltatori convocati. 800 24 00 24, e allora in campo Gianluigi, provincia di Monza. Sì, Genta, buongiorno, buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Innanzitutto, no, io volevo solamente fare una piccola, una considerazione, un appunto, insomma, sì, al momento che sta attraversando il calcio, che coinvolge tutti, dai dirigenti ai calciatori e anche comunque a noi tifosi e a voi giornalisti, perché io voglio fare solo un piccolo esempio, una cosa mia personale. Io sono un tifoso juventino, un abbonato allo Juventus Stadium e tutto. La partita dell'altra sera della Juve, adesso noi ci facciamo troppo, secondo me, come ha detto Prandelli, condizionare dal risultato, perché quella partita lì, se la Juve vinceva 3-0, cioè non c'era niente da dire, adesso è inutile stare a inventarsi il top player e mille cose, cioè è girata male, insomma, dai, adesso io il calcio lo vedo da una vita, cioè, a me non sembra che era una questione. Lo so che è girata, lo so che è girata male, ma queste sono partite che non puoi sbagliare, che non possono girare male, perché è un torneo troppo compresso, è una partita che rischia di pregiudicare il cammino della Juventus in Champions League. Queste partite non le puoi sbagliare. Poi girata male, sono d'accordo, meritava di vincere, sono d'accordo, però quelle partite sono partite da vincere, punto. Poi so anch'io che in questa prima fase tutte le grandi squadre stanno facendo molta fatica, perché ci sono le piccole, dal Norgelland, dal Cluj, a tutte queste che hanno grande fame di notorietà, di popolarità, di vetrina, di soldi, lo so, però queste sono partite da vincere, quindi il calcio è fatto così. Federico Savona. Pronto, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Volevo Grazie. Parlare di basket. Volentieri. Volevo chiederle qual era la sua opinione sulle possibilità dei Mavericks per questa stagione. Ah. Io personalmente direi che semifinale di conference ce n'è già davanti. Poi certo che se Collison conferma quanto ha fatto di buono, o meglio, impara a non tirare ogni volta che le parte alla palla tra le mani. Nowitzki, vabbè, Nowitzki e Kaman riesce a giocare una quantità decente di partite in stagione, tutto può succedere. Tutto può succedere, però la semifinale di conference cui lei ha fatto riferimento all'inizio mi sembra un obiettivo realistico. Poi tutti gli altri che ha messo sono corretti punti interrogativi. Io non vedo i Mavericks favoriti né per il titolo né per il titolo di conference, ma ripeto, è una squadra che ha molte verifiche da fare, verifiche che come sappiamo e come tra poco Flavio Tranquillo ci dirà, andranno fatte da gennaio in poi per le squadre che contano. Flavio, buongiorno. Buongiorno a lei. Dei Mavericks abbiamo già parlato, martedì via alla giostra. Che cosa ha detto la pre-season NBA? Ma non ha detto moltissimo, perché prendere la pre-season, non dico per orcolato, ma anche solo per una cosa vagamente attendibile, sarebbe del tutto sbagliato. È naturale che il dato è quello relativo ai Lakers, che erano attesi da tutti e non hanno fatto la miglior pre-season del mondo, però i risultati e le 8 sconfitte contano veramente 0,000, ci dicono solamente alla lontanissima che sarà un po' più difficile di quello che si può pensare. Sì, secondo te invece, sempre sulla base di questa cartina al tornasole un po' farlocca, chi è pronto? Quale squadra hai visto pronta per partire forte? Sicuramente Miami, direi. Sicuramente Miami, perché si sono levati un gorilla di 400 tonnellate dalla schiena. In più hanno del sangue nuovo e in più hanno la convinzione di giocare un sistema divertente che li libera rispetto a quello precedente, quindi partono da una condizione di avere più sicurezza degli altri, al di là del fatto di essere i campioni uscenti. Sì. Però poi dopo 20-30 partite andranno a vedere i valori veri complessivi. Sì, come commenti questo articolo di Massimo Oriani di oggi? Miami inventa il basket senza ruoli, l'innovazione di Spoelstra per non dare riferimenti agli avversari. Ma allora, e questo è un discorso abbastanza lungo e complesso. Diciamo che Miami era partita esattamente così anche nella passata stagione. Poi dopo 10 partite abbandonò quel tipo di pallacanestro e ripiombò nei suoi problemi che durarono fino, direi, alla prima serie di playoff. A volte quello che non riesci a fare con l'analisi lo fa il caso per te. C'è stato l'infortunio di Bosch, hanno dovuto giocare la serie contro i Pacers ammettendo che era meglio far giocare dei giocatori che stavano in campo che non un centro come Pittman, un giocatore che non poteva stare in campo a quel livello, per sostituire Bosch. Hanno vinto così, sono andati avanti così, adesso i risultati gli permettono, però non è il sistema, è che se io ho LeBron James non è condizionato psicologicamente, poi delle partite le vinco con qualsiasi sistema, e viceversa, se non ce l'ho ne vinco di meno. Sì, Flavio, giocatori da monitorare invece, prima che cominci la stagione, hai qualche nome da fare? Ma io penso che Anthony Davis, non solo perché è stata la prima scelta assoluta, sia un giocatore da guardare con grande attenzione. Potrebbe essere l'inizio di una grande, grandissima carriera, poi quanto grande dipende anche dai compagni, dalla fortuna, dallo stato fisico, però quello mi sembra una cosa davvero speciale. C'è Andrea che scrive: oddio, chiedi di Lillard dei Blazers. Molto interessante, uno dei giocatori sicuramente interessanti in un'altra categoria, cioè di quelli buoni, magari anche buonissimi, ma difficilmente, quando io penso a Anthony Davis, penso a un giocatore che finisce la carriera nella Hall of Fame. Ecco. Sì. Un'ultima cosa, la pre-season degli italiani, ondivaga. Ondivaga, diciamo, per Bellinelli è passare dal giorno alla notte, quindi è solo una presa di contatto con una realtà così diversa. Bargnani più o meno mi sembra sempre lui, non credo che Danilo sia sempre lui, mi sembra un giocatore che ha lavorato tanto sul tiro e che in questo tiro ha più fiducia, più determinazione, più sicurezza, accetta di più, forse diciamo potrebbe aver trovato l'equilibrio tra la situazione di New York in cui era sempre fermo a aspettare di tirare e la prima situazione di Denver in cui non lo era mai. Alla fine aveva forse perso una parte del suo gioco, se adesso la ritrova e riesce a coniugare le due cose potrebbe essere il caso, si fa interessante. Flavio, grazie. A voi. Un abbraccio, grazie a Flavio Tranquillo. 800 24 00 24 e sarete convocati ed entrerete nel campo di Radio 24 anche voi. Allegri in conferenza stampa ha detto: mai temuto l'esonero, ora vinciamo, momento difficile ma lavoriamo per risalire la classifica. Non mi sembrano dichiarazioni epocali, poi domani sera verso le 11 magari ne riparliamo, ne riparlerà Giovanni Capuano poi nel weekend, ne riparleremo noi da lunedì. Allora, Cristiano Ronaldo ha ricevuto due lettere, una era questa. Ma i sogni sono sempre leciti e qualche volta si trasformano in realtà. Aggiungere a questa squadra un campione come Ronaldo credo che farebbe piacere a tutti. L'altra è stata quella di Maria De Filippi, che l'ha convocato per il suo programma C'è posta per te. Indovinate se dove va domani sera Cristiano Ronaldo. Se dite al Milan avete sbagliato. Dario Gorizia, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, grazie per avermi chiamato. Niente, alcune considerazioni sul Milan e su Allegri. Cioè, con la gestione di Allegri, a parte che ha tagliato tante di quelle teste e ha permesso a giocatori fantastici di andare via, vabbè, motivi di età, motivi di bilancio, non è solo la colpa sicuramente. Attenzione, non credo che sia stato Allegri, non credo sia stato Allegri a mandare via Ibrahimovic e Thiago Silva. Ma Pirlo sì, è Pirlo, è da tagliarsi qualcosa, vedendo come gioca e come giocava e come ha sempre giocato. Ma lasciamo perdere questo. Il problema grosso del Milan è che manca il gioco. Io non ho visto anni che seguo il Milan, non ho visto il gioco perché era facile l'anno scorso. traversoni da dietro, un armadio di quasi 2 metri che ti riprendeva sì, le paglie. C'era un gioco che era funzionalizzato, che era in funzione dei fuoriclasse che avevi e che non hai più. Allora? Dico. Uno scossone bisogna darlo a questa squadra, sì. Pur nella continuità, perché non si può cambiare a mezza nave il percorso. Quindi il buon Allegri, che tutto sommato non ha mai convinto, secondo me, ma il calcio non si niente di più opinabile, nella continuità di Tassotti è una grande dimensione di entusiasmo con Inzaghi. Era già fatta questa formula. Ma Inzaghi, guardi, allora Tassotti è probabile che nel caso in cui Allegri si rinuncia ad Allegri, la soluzione più probabile, anche più semplice, che venga promosso capo allenatore. Filippo Inzaghi allenatore non è ancora. In questi giorni ho sentito parlare di mille nomi, da Rijkaard a Gattuso. Rijkaard, che è un allenatore che pure ha fallito le ultime esperienze, a Gattuso, che non è un allenatore, sta facendo giocatore nel Siona, Paolo Maldini, che non è mai stato un allenatore, certamente ho sentito parlare di Van Basten, ma sono tutti nomi che avete sentito anche voi. Il discorso vero è che, insomma, quello che credo io è che Allegri sia stato esautorato dalla società in estate, che la società, al di là delle molte difese d'ufficio, non creda più nel lavoro di questo allenatore. Di conseguenza mi sembra che ci credano un pochino o pochissimo anche i giocatori. In situazioni come questa i giocatori devi dare certezze. Se ti presenti ad una partita di Champions League cambiando modulo con un modulo che hai provato anche relativamente in allenamento, se non hai ancora trovato una copia d'attacco che funzioni, se non riesci a mettere Montolivo nelle condizioni di giocare, come abbiamo visto in nazionale, magari un po' più vicino alle punte, se Boateng sembra imbrocchito a dei livelli mostruosi e Melissa Satta dice che non è colpa sua, non faccio fatica a crederle. Se ci sono tutti questi interrogativi, se il Milan sembra una squadra che non sa dove andare e se il Milan è certamente una squadra impaurita, beh, qualcosa bisogna fare. Non vedo molte altre strade. Roberto da Brescia. Sì, buongiorno. Intervenivo sul fatto che mi ha stupito molto la prestazione del Napoli ieri sera, anche dell'Inter per quanto riguarda un risultato afferrato coi denti e le unghie negli ultimi minuti, cioè considerando che il Napoli, soprattutto con la Juventus, sono la prima e la seconda forza del campionato. Sì. Tutte queste complicazioni nel vincere su partite che sembrano molto facili. Ma è forse anche una scarsa preparazione da un punto di vista tecnico degli allenatori su quello che può essere schemi e gioco applicati in Europa, in altri paesi? No, io credo siamo all'avanguardia assoluta dal punto di vista tattico. Credo che, insomma, le squadre italiane, ma lo hanno dimostrato anche in stagioni non lontane, siano regalino niente a nessuno dal punto di vista tattico. Il problema è credere nella competizione che stai facendo. L'Inter mi sembra crederci. Io ho apprezzato molto il fatto che l'Inter ieri sera si sia presentata a giocare questa partita, che non era facile, perché il Partizan Belgrado, l'abbiamo visto, ha un pugno di ragazzini interessantissimi, corrono come i dannati. È stata una partita complicata, risolta anche con un po' di fortuna, però affrontata seriamente dall'Inter, e questo mi fa piacere. Hanno affrontato l'impegno un po' meno seriamente invece l'Udinese del Napoli, e mi spiace dirlo, perché anche l'Udinese perdere in Svizzera in quel modo con lo Young Boys vuol dire che non ci sei andato con la testa giusta. Tommaso Latina. Buongiorno, parliamo un po' di Ferrari. Di Ferrari, sì. Sì, un po' di Ferrari. Io purtroppo. Ferrari, la macchina o il dottor Ferrari? No, la macchina, no, il dottor Ferrari lo lasciamo stare. Sì. Meglio così. No, io purtroppo per la mia età, i miei 53 anni, io sono rimasto ai tempi di Villeneuve e Arnoux, di Pironie, e vedere un pilota solo in Ferrari, io sono rimasto come l'ingegnere, il quale diceva che a lui non gli frega chi vince, l'importante è che vince la Ferrari. per me Alesin è come giocare in 8, neanche in 10 con Alesin in squadra. Alesin con Massa? No, aspetti, non sto capendo più niente. Mi sono confuso io. Cioè, non dicevo, ma di Massa. Ma parlava di Massa. Però la colpa è tanta di Alonso, ma è tanta di Domenicali. tante di domenicali. Guardi, la, non Ferrari, so, la Ferrari è... No, l'ultima cosa. Dica, l'ultima cosa, dica perché, Tommaso. Perché domenicali ci ha fatto perdere gli ultimi 2-3 mondiali. Lasciamo vedere quelli dell'anno scorso, ma gli ultimi 2-3 mondiali è colpa sua. Perché sembra un po' eccessivo. Vabbè, ma tutti gli errori fatti con Massa... Mi sembra un po' eccessivo. Circuito. Allora, Massa, allora, le dico, Alonso è nettamente il pilota più forte del mondo. Io credo che un team, per puntare al mondiale piloti, debba avere un top driver, visto che queste espressioni sono così di moda, e quindi questo top driver è Alonso. Piuttosto sono d'accordo con lei nel pensare che Massa non sia il pilota in grado di aiutare Alonso a vincere il titolo mondiale. Cioè, mi sembra che Alonso, grosso modo, se quest'anno ce la fa, ha fatto quasi tutto da solo. Giovanni, provincia di Ancona. Giovanni? Giovanni? Eccomi. Eccola. Niente, volevo parlare del... della questione Milan. Sì. Volevo fare due considerazioni e volevo una sua opinione. Uno, Zeman ha rovinato due squadre, il Pescara, e sta rovinando ora la Roma. Pescara, cioè, l'ha portato comunque, in Serie A. Siccome aveva... Mi sembra che sia tanto rovinato il Pescara. Vabbè, comunque col Pescara aveva dei meccanismi, dei... delle cose che comunque già andavano in un certo senso. Con la Roma, siccome non c'ha dei giovani, la sta rovinando. E io penso che, siccome il Milan c'ha tutti i ragazzi giovani, Zeman era l'ideale allenatore per la Roma. Vabbè, ho capito poco queste considerazioni, perché mi pare che il Pescara l'abbia tutt'altro che rovinato Zeman. Mi pare che la Roma di giocatori giovani ne abbia parecchi, basta andare a leggere il centrocampo abitualmente schierato da Zeman, ma comunque è uno che sta ancora cercando di saldare la vecchia guardia con i tanti giovani che invece ha. Non ho capito cosa c'entrava Zeman con il Milan, che è una squadra che invece che di giovani ne ha, di giovani di livello quantomeno ne ha pochini, direi pochini. Dunque, weekend con Giovanni Capuano, ci sentiamo lunedì. Grazie a Franco Piantini in redazione, a Roberto Scaltritti in regia. Ciao a tutti. Ma se uno mantiene sempre lo stesso profilo, il famoso passo da montagna, non deve né correre né andare piano, sempre lo stesso passo.